Capitolo 25. Il desiderio di William di veder ballare Fanny produsse su suo zio più che un'impressione fuggevole. La speranza di averne l'opportunità, che Sir Thomas aveva espresso sul momento, doveva avere un seguito. Si era proposto, o si proponeva, di appagare un così amabile desiderio facendo cosa grata al nipote e a chiunque altri volesse veder ballare Fanny, e insieme procurando un divertimento alla gioventù tutta quanta. Dopo aver considerato la cosa e aver preso la sua risoluzione, con calma e senza consultare alcuno, la mattina seguente, durante la prima colazione, la comunicò, dopo aver ricordato ed elogiato quel che il nipote aveva detto. «Non vorrei, William, che tu dovessi lasciare il Northamptonshire senza aver avuto questa soddisfazione. Mi farebbe piacere vedervi ballare tutti e due. Tu hai parlato dei balli di Northampton, le tue cugine vi hanno occasionalmente partecipato, ma in questo caso essi non fanno veramente per noi. Sarebbe troppo faticoso per vostra zia, credo, perciò dobbiamo scartare Northampton. Un ballo in casa nostra sarebbe preferibile. E se... Ah, mio caro Sir Thomas, interruppe Mrs. Norris. Sapevo quel che stava per venire fuori, sapevo quello che lei stava per dire. Se la cara Giulia fosse a casa o la carissima Mrs. Rushworth si trovasse a Soperton per offrire un motivo, un'occasione per una simile festa, lei sarebbe tentato di dare un ballo per la nostra gioventù qui a Mansfield. Sarebbe tentato, lo so, se loro due saranno a casa per dar lustro alla festa, lei darà un ballo questo stesso Natale. Ringrazia tuo zio, William, ringrazia tuo zio. «Le mie figliole», la interruppe Sir Thomas, «si stanno divertendo a Brighton e spero che ne siano completamente soddisfatte, ma il ballo che penso di dare a Mansfield sarà per i loro cugini. Se potessimo essere tutti riuniti, la nostra soddisfazione sarebbe senza dubbio più completa, ma l'assenza di alcuni non deve privare gli altri di uno svago». Mrs. Norris non replicò. Vide lo sguardo risoluto del cognato, e le ci volle qualche minuto di silenzio per riacquistare la calma dopo tanta sorpresa e irritazione. Un ballo? In quel momento dell'anno? Durante l'assenza delle figliole senza consultare lei previamente? Tuttavia, trovo presto conforto. Sarebbe stata lei a fare ogni cosa. A Lady Bertram, naturalmente, doveva essere risparmiata qualsiasi preoccupazione e fatica. Tutto, pertanto, sarebbe ricaduto su di lei. Sarebbe toccato a lei fare gli onori della serata e questa certezza le restituì abbastanza buon umore da metterla in grado di unirsi agli altri prima che si avessero terminato di esternare la loro gioia e i loro ringraziamenti. Edmund, Fanny e William, ciascuno a modo suo, espressero con l'atteggiamento e con le parole tanto grato piacere per il ballo promesso quanto Sir Thomas ne poteva desiderare. Edmund era felice per gli altri due, suo padre non avrebbe potuto compiere un gesto gentile o impartire un favore che gli desse maggior soddisfazione. Lady Bertram era perfettamente acquiescente e soddisfatta e non trovò da fare nessuna obiezione. Sir Thomas le garantì che il ballo le avrebbe dato pochissimo fastidio e lei lo assicurò che non temeva assolutamente il fastidio, anzi veramente non poteva immaginare che ne dovesse risultare alcuno. Mrs. Norris era pronta a suggerire quali stanze Sir Thomas doveva ritenere più adatte per darvi la festa, ma trovò che ogni cosa era già predisposta e, quando si suggerì la data da scegliere, apprese che anche il giorno era già stabilito. Sir Thomas si era divertito a dar forma a un progetto completo e, appena ella consentì ad ascoltare con calma, fu in grado di leggere l'elenco delle famiglie da invitare e di comunicare che, in base ai suoi calcoli, con tutte le riserve dovute alla brevità del preavviso, pensava che si sarebbe messa insieme abbastanza gioventù da formare da 12 a 14 coppie e poté spiegare particolareggiatamente le considerazioni che lo avevano indotto a fissare il prossimo 22 come il giorno più adatto. William doveva essere a Plymouth per il 24. Il 22 sarebbe stato dunque l'ultimo giorno della sua visita, ma visto che i giorni erano così pochi, non sarebbe stato saggio sceglierne uno più vicino. Mrs. Norris dovette accontentarsi di dichiararsi assolutamente dello stesso parere e di dire che era stata sul punto di proporre lei stessa il 22 come senz'altro quello più adatto. Il ballo era ormai cosa decisa e prima di sera la notizia fu comunicata a tutti quanti vi erano interessati. Gli inviti furono spediti con solerzia e quella notte più di una giovanetta andò a coricarsi con la mente piena di lieti progetti, proprio come Fanny. In lei, d'altra parte, i pensieri, le preoccupazioni erano a volte più intensi della gioia. Giovane e senza esperienza com'era, con pochi mezzi e con scarsa fiducia nel proprio gusto, il problema del come vestirsi era cagione di penosa ansia. E il quasi unico ornamento in suo possesso, una bellissima crocetta di ambra che William le aveva portato dalla Sicilia, le poneva il dilemma più grande, poiché aveva a disposizione solamente un po' di nastro per appendersela al collo. E benché l'avesse portata così già una volta, sarebbe stato impossibile farlo allo stesso modo in una simile occasione. Di fronte ai ricchi monili coi quali, supponeva, sarebbero comparse tutte le giovani signore. Eppure, non metterla. William le aveva detto che avrebbe voluto comprarle anche una catenella d'oro, ma la spesa era stata al di là delle sue possibilità. Perciò, se non avesse portato la crocetta, poteva mortificarlo. Queste erano le sue ansiose considerazioni, sufficienti per moderare perfino la gioia di un ballo dato principalmente per farle piacere. Frattanto i preparativi procedevano e Lady Bertram continuava a sedere sul suo sofà senza risentirne il minimo inconveniente. Ricevette a colloquio la direttrice di casa e sollecitò la sua cameriera personale affinché le preparasse un vestito nuovo. Sir Thomas impartì ordini e Mrs. Norris fece un gran correre qua e là, ma tutto questo a lei personalmente non cagionò fastidi e, come aveva previsto, non vi erano di fatto inconvenienti in quella faccenda. Durante tutto questo periodo Edmund era particolarmente assillato da preoccupazioni personali. La sua mente era infatti occupata da due grandi eventi che ormai prossimi dovevano fissare il suo destino: l'ordinazione e il matrimonio. E si trattava di eventi di tale importanza da far sì che, a differenza di tutti gli altri abitanti di Bensir Park, egli guardasse al ballo, cui sarebbe presto seguita l'ordinazione, come a cosa di rilevante importanza. Il 23 si sarebbe recato a Peterborough in casa di un amico che si trovava nella sua stessa situazione e che doveva ricevere anche lui gli ordini religiosi nella settimana di Natale. Metà del suo destino sarebbe allora fissato, ma l'altra metà non poteva essere determinata altrettanto facilmente. I doveri da compiere sarebbero stati chiari, ma la sposa desiderata, capace di condividere, animare, ricompensare il compimento di quei doveri, era forse impossibile da ottenere. Sapeva con certezza quel che gli voleva, ma non era perfettamente sicuro di quel che volesse Miss Crawford. Vi erano dei punti sui quali non si trovavano del tutto d'accordo. In alcuni momenti non sembrava propensa a corrisponderlo e, benché assolutamente sicuro del proprio affetto, tanto da essere deciso, quasi deciso, a chiederle di giungere a una decisione da lì a brevissimo tempo, appena i vari problemi che lo attendevano fossero risolti e lui sapesse con certezza quello che le poteva offrire, era molto combattuto e attraversava ore di incertezza tentando di prevedere il probabile risultato. A volte la certezza di essere amato era fortissima. Guardandosi indietro poteva rammentare una lunga serie di incoraggiamenti ed ella gli appariva perfetta, tanto capace di un amore disinteressato quanto di ogni altra virtù. Ma poi il dubbio e l'ansietà riprendevano il sopravvento. Ricordava la dichiarata avversione di lei per una vita intima e appartata, la preferenza per la vita di Londra e si chiedeva cosa mai potesse aspettarsi se non un deciso rifiuto. Un rifiuto, o alternativa ancora più deprecabile, la richiesta di sacrifici nell'assolvimento della sua missione, tali da essere inaccettabili alla sua coscienza. Il risultato dipendeva da quest'unico punto. Lo amava abbastanza da rinunciare a quelle che erano le sue pretese essenziali? Lo amava abbastanza da non considerarle più come tali? E benché a queste domande, che gli si poneva ossessivamente, desse generalmente risposta a un sì, a volte si sentiva portato a pronunciare un no. Di lì a poco Miss Crawford avrebbe dovuto partire da Mansfield, circostanza che negli ultimi tempi aveva reso ancora più incerto l'alternarsi dei sì e dei no. Le aveva visto brillare gli occhi mentre parlava della lettera di una cara amica che reclamava una sua lunga visita a Londra, e della gentilezza di Harry che si era impegnato a trattenersi fino a gennaio per poterla poi accompagnare in città. L'aveva udita parlare dei piaceri che si riprometteva da quel soggiorno con un'animazione che per lui suonava un no, ripetuto su tutti i toni. Ma questo era avvenuto il giorno stesso in cui la cosa era stata decisa, in una prima esplosione di gioia, quando non pensava ad altro che agli amici che si preparava a raggiungere. In seguito l'aveva sentita esprimersi in modo diverso, spinta da altri sentimenti più complessi. L'aveva udita dire a Mrs. Grant che si sarebbe allontanata da lei con rimpianto, che incominciava a pensare che negli amici, nei piaceri che l'attendevano, valessero quelli che si sarebbe lasciati alle spalle e che, benché sentisse che doveva andare e sapesse quanto si sarebbe divertita una volta partita, già pregustava la gioia del ritorno a Mansfield. Non vi era un sì in tutto questo? Con simili dati contraddittori su cui ponderare, da sistemare e risistemare, Edmund non poteva certo pensare molto alla serata, che il resto della famiglia attendeva con un concorde e grandissimo interesse. Per lui, eccettuata la gioia che ne derivava per i due cugini, la serata non prometteva più di una qualsiasi altra in cui le due famiglie avessero stabilito di riunirsi. In ogni incontro vi era la speranza di ricevere un'ulteriore conferma dell'amore di Miss Crawford e il turbinio di una sala da ballo forse si prestava particolarmente a suscitare o ad esprimere sentimenti seri. Impegnarla per i primi due balli era tutta la felicità che se ne riprometteva e il decidersi a farlo l'unica preparazione per il ballo che, a dispetto di tutto quanto dalla mattina alla sera gli si svolgeva intorno in proposito, riusciva a suscitare in lui un qualche interesse. Il prossimo giovedì era il giorno fissato e il mercoledì mattina Fanny, ancora incapace di risolvere da sola in modo soddisfacente il problema della sua acconciatura, prese la decisione di consigliarsi con persone più illuminate di lei e di rivolgersi a Mrs. Grant e a sua sorella, il cui noto buon gusto l'avrebbe certamente guidata in modo impeccabile. E siccome Edmund e William si erano recati a Northampton e aveva motivo di pensare che anche Mr. Crawford fosse fuori casa, si incamminò verso la canonica confidando di trovare l'opportunità per un colloquio privato, e che esso fosse strettamente privato, era cosa importantissima per Fanny, che si vergognava, e non poco, di manifestare quella sua ansia. Incontrò, a poche yard dalla canonica, Miss Crawford, che appunto era in procinto di recarsi da lei, e siccome le sembrò che l'amica, sebbene costretta dalla cortesia a insistere per tornare a casa, fosse dispiaciuta di dover rinunciare alla passeggiata, espose subito il motivo che l'aveva condotta e osservò che se l'altra voleva essere così gentile da darle la sua opinione, se ne poteva discutere tanto bene all'aperto quanto in casa. Miss Crawford si dimostrò compiaciuta dalla richiesta, ma dopo un momento di riflessione, insistette assai più cordialmente di prima per tornare in casa con Fanny e gli propose di salire direttamente in camera sua, dove potrebbero fare un'amichevole chiacchierata, senza disturbare il dottore e Mrs. Grant che si trovavano insieme in salotto. Era proprio quanto conveniva a Fanny e, piena di gratitudine per una così sollecita e gentile attenzione, la seguì in casa e salì con lei al piano superiore, dove furono ben presto tutte prese dall'interessante argomento. Miss Crawford, lusingata dalla richiesta di aiuto, le dedicò tutta la sua competenza e il suo gusto. Dissipò ogni perplessità con i suoi suggerimenti e tentò con i suoi incoraggiamenti di rassicurarla piacevolmente. Progettati in linea di massima i particolari dell'abbigliamento, Miss Crawford chiese: «Ma cosa metterà come collana? Non porterà la crocetta di suo fratello?» E mentre parlava stava aprendo un pacchetto che Fanny le aveva visto tra le mani quando si erano incontrate. Fanny rispose che lo avrebbe desiderato moltissimo e espresse i suoi dubbi in proposito. Non sapeva come fare per mettersi la crocetta al collo, né come astenersi dal portarla. In risposta si vide porre davanti un cofanetto da gioielli e si sentì chiedere di scegliere fra varie collane e catene d'oro. Era quello il pacchetto che Miss Crawford portava e quello lo scopo della visita che si era cinta a farle, e con affettuosa gentilezza ora insisteva perché Fanny scegliesse una catenella per la sua crocetta e poi la conservasse come suo ricordo, e la incoraggiava dicendo tutto quanto poteva ovviare agli scrupoli che al solo udire la proposta avevano fatto indietreggiare Fanny tutta inorridita. «Lei vede che collezione di monili ho», disse l'altra, «metà più di quanti ne metto di cui mi ricordi. Non li offro come nuovi, li offro solamente una vecchia collana. Deve perdonarmi la libertà e farmi il favore di accettarla». Fanny faceva ancora resistenza e con assoluta sincerità. Il dono era di troppo valore. Ma Miss Crawford perseverò e difese il suo punto di vista con tanto affettuoso ardore, parlando a nome dei diritti della crocetta di William, chiamando in causa il ballo e se stessa, che alla fine l'ebbe vinta. Fanny si trovò costretta a cedere per non essere accusata di orgoglio e di ottusità e di altri meschini difetti e dopo aver finalmente ceduto con modestia e riluttanza si accinse a fare una scelta. Guardò e guardò Desiderando capire quale dei gioielli aveva meno valore, e si decise finalmente in base alla certezza che una collana le veniva messa più frequentemente sotto gli occhi. Era d'oro, finemente lavorato, benché Fanny le preferisse una catena più lunga e semplice, giudicandola meglio adatta per l'uso che voleva farne, sperò, fissandosi su quella, di scegliere l'oggetto che Miss Crawford meno desiderava conservare. Con un sorriso, Miss Crawford manifestò la sua piena approvazione e si affrettò a completare il dono, mettendole la collana intorno al collo e dicendole di guardare come le stava bene. A Fanny non fu possibile non riconoscere che le si addiceva a perfezione e, nonostante gli scrupoli che perduravano, fu estremamente compiaciuta per un dono giunto tanto a proposito. Avrebbe forse preferito essere obbligata a una qualche altra persona, ma represse quel poco nobile sentimento. Miss Crawford aveva indovinato le sue difficoltà con una delicatezza d'animo che ne dimostrava la sincera amicizia. Quando porterò questa collana penserò sempre a lei, disse, e rammenterò quanto è stata buona e gentile. Dovrà pensare anche a qualcun altro quando porterà questa collana, rispose Miss Crawford. Dovrà pensare a Harry perché è stato lui a sceglierla per primo. È lui che me l'ha regalata e insieme alla collana io le faccio carico di ricordare il donatore originario. La sorella non deve venirle in mente senza il fratello. Fanny, sbalordita e confusa, avrebbe voluto restituire immediatamente il gioiello, accettare quello che era stato il regalo fatto da un'altra persona, da un fratello per giunta. No, era impossibile, non poteva essere. E con un calore e un imbarazzo che parvero assai divertenti alla sua compagna, posò la collana sul suo letto di bambagia. E sembrò decisa a prenderne un'altra o a non accettarne nessuna. Miss Crawford pensò che non aveva mai assistito a una più graziosa presa di coscienza. Figliola cara, disse ridendo, di che cosa ha paura? Pensa che Harry reclami la collana in quanto è mia e possa immaginare che lei non l'ha ottenuta onestamente? O pensa che si sentirà troppo lusingato nel vedere intorno al suo collo leggiadro un ornamento da lui acquistato col suo denaro 3 anni fa? Prima di sapere che questo stesso collo esistesse, o forse, con sguardo malizioso, lei sospetta un complotto fra noi due e che quello che sto facendo ora è a conoscenza di mio fratello e risponde ai suoi desideri? Rossa in volto, Fanny protestò contro una simile supposizione. Ebbene, allora, riprese Miss Crawford più seriamente, ma per nulla convinta, per persuadermi che non sospetta alcun trucco e che ha a cuore la sincerità, come sempre in passato, prenda la collana e non aggiunga altro in proposito. Il fatto che sia un dono che mio fratello mi ha fatto non impedisce assolutamente che lei l'accetti, così come non impedisce, gliela assicuro, che io sia pronta a separarmene. Harry mi dà continuamente una cosa o l'altra. Ho una tale quantità di suoi regali che è assolutamente impossibile per me dar loro valore o per lui ricordarne la metà. Quanto a questa collana, l'avrò portata mezza dozzina di volte o anche meno. È molto graziosa, ma non ci penso mai. E benché lei sia assolutamente libera di prendere un qualsiasi altro monile del mio cofanetto, le dirò che per caso ho scelto proprio la collana che, se fossi io a scegliere, preferirei darle più di ogni altra e vedere in suo possesso. Non rifiuti più, la prego. Una piccola cosa come questa non vale nemmeno metà delle parole che vi abbiamo speso. Fanny non osò fare ulteriore opposizione e con rinnovati ma meno sereni ringraziamenti accettò la collana una seconda volta, benché negli occhi di Miss Crawford vi fosse un'espressione che non riusciva a decifrare con sua piena soddisfazione. Le era impossibile non rendersi conto del cambiamento dei modi di Mr. Crawford nei suoi riguardi. Aveva notato il fatto da lungo tempo, tentava apertamente di compiacerla, era galante, era pieno di attenzioni. Si comportava con lei su per giù come si era comportato con le sue cugine. Supponeva che desiderasse ingannarla e togliere la sua pace così come aveva fatto con loro. E come credere che non c'entrasse con quella storia della collana? Non poteva essere convinta che non c'entrava, poiché Miss Crawford, compiacente come sorella, era superficiale come donna e come amica. Riflettendo e dubitando, e constatando che il possesso di quello che aveva tanto desiderato non le recava molta soddisfazione, si avviò verso casa. Da quando, diretta alla canonica, aveva percorso quello stesso sentiero, le sue ansie, più che diminuire, avevano trovato una nuova giustificazione.